Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ritengo che ci sia un luogo, che è un luogo sacro per la democrazia, che è l'aula o di un Parlamento o di un Consiglio Comunale. Io sono assolutamente pronto a confrontarmi con la mia maggioranza, a illustrare quanto fatto, le cose positive, gli errori, la visione per il futuro, ma quello è il luogo della democrazia. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa saga si arricchisce di questo, non proprio un colpo di scena, perché diciamo che Marino lo paventava da giorni, questo fatto di ritirare le dimissioni, però non so quanti davvero ci abbiano creduto fino in fondo. Marino, bisogna dire, di una resistenza, di una tenacia, di là che lo si vede in positivo e in negativo, quindi le ha ritirate queste dimissioni. Oggi ufficiale torna a essere in questo momento il sindaco di Roma, quindi non più dimissionario. E adesso che cosa farà il PD? Il primo annuncio è stato quello di far dimettere in blocco i propri consiglieri più qualcun altro che sarebbe disponibile dagli altri gruppi consiliari e dall'opposizione, però bisogna vedere se ci sono i numeri. Sentiremo qui a Effetto Notte il deputato del PD Emanuele Fiano su che cosa intende fare il PD, qual è la mossa a questo punto del PD, perché ieri c'è stata, sapete, questa riunione con Orfini, Matteo Orfini, che è presidente del Partito Democratico, nonché commissario straordinario del PD romano, con Ignazio Marino, però evidentemente non è andato a buon fine, non c'è stato un esito positivo, perché anzi lo scontro evidentemente si è accentuato. Marino va allo scontro col PD, quindi il PD che farà? Lo sentiremo poi della viva voce di un deputato PD, ci sarà anche un commentatore editorialista del Sole 24 Ore per parlare di questa vicenda, di qualcuno l'ha paragonata a una telenovela messicana o brasiliana. Mi piacerebbe sapere però voi cosa ne pensate di questa mossa di Marino, ha fatto bene, ha fatto male, come la commentate? Già è partita questa vostra sfilza di riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, continuate sulla pagina Facebook del programma, oppure potete mandare gli sms al 349-238-6666 per riportare le vostre riflessioni su questa ulteriore tappa della vicenda Marino. Dopodiché parleremo anche del caso che è stato risolto, di un omicidio di una donna 44enne in Calabria. Alla fine si è scoperto dopo diversi mesi che era stata la figlia 17enne, perché lei, la madre, le impediva per punizione, perché andava male a scuola, di usare il cellulare e il computer, e lei le aveva sparato con un colpo di pistola, poi inscenando una specie di rapina. Ci sarà una psicologa anche per capire, al di là che questi possono essere per carità casi eccezionali, per capire cosa passa nella mente di un ragazzo, una ragazza, un adolescente quando gli viene vietato di usare i social network, visto che per molti diventa quasi una dipendenza. Insomma, c'è un sondaggio che vi citerò poi più tardi, secondo il quale il 65% dei ragazzi a cui viene impedito di utilizzare anche per pochissimo questi smartphone o computer eccetera si sente tagliato fuori dal mondo, si sente in ansia. Allora partiamo intanto con il riassunto della giornata e voi procedete con le vostre riflessioni. Roma, Marino sfida il PD e ritira le dimissioni, si dice pronto al confronto con la maggioranza, ma 25 consiglieri sono pronti alle dimissioni in massa. Ancora tangenti per appalti e domiciliari il presidente di Rete Ferroviaria Italiana. Lo scontro sulle unioni civili, il sottosegretario Lotti apre ad altre maggioranze. Rivoluzione demografica in Cina, addio al figlio unico, il comitato centrale cancella la legge, ora è possibile avere due figli per coppia. Svolta sull'omicidio in Calabria, un'infermiera di 44 anni fu uccisa dalla figlia 17enne, arrestata oggi perché per punizione le vietava computer e cellulare. Messina, la città senza acqua da 6 giorni, esplode la protesta, i cittadini esasperati. Scandalo Volkswagen, il gruppo ha comunicato che i veicoli circolanti in Italia coinvolti nella vicenda sono 709.712, lo ha detto alla Camera il ministro dei trasporti Delrio. Caso Varoufakis, la RAI vieta i compensi per i politici in TV. L'OMS, dopo l'allarme carni rosse, su carni nessun allarmismo, dice solo abbiamo identificato i rischi, il report finale ci sarà nel 2016, ma le conclusioni sono le stesse. Per il calcio, Sampdoria-Empoli chiude la decima di Serie A. Partiamo Partiamo quindi dalla decisione del sindaco Marino, che nel pomeriggio appunto ha firmato la lettera con la quale ritira le dimissioni che aveva dato il 12 ottobre, questo a 3 giorni dalla scadenza del suo mandato e dalla nomina poi di un commissario per la città, e dopo 17 giorni di tira e molla, lo farà, non lo farà. Ha detto che vuole un confronto trasparente in aula per illustrare quanto ha fatto, le cose positive, gli errori, la visione per il futuro, ha detto, ma intanto, vi dicevo, 25 consiglieri sono pronti alle dimissioni. Nazareno Orlando per noi a Roma. Ciao Nazareno, questa è in sintesi la giornata. Vuoi aggiungere qualcosa di particolarmente significativo, Nazareno? Ciao. Ciao Roberta, buonasera da Piazza del Campidoglio. Intanto ti dico le ultimissime: è ancora in corso la giunta capitolina, che è cominciata intorno alle 20:20. Non ci sono 3 assessori, non hanno partecipato l'assessore al bilancio Causi, l'assessore ai trasporti Esposito e l'assessore al turismo Di Liegro, quindi 3 assessori non hanno partecipato alla giunta capitolina. Ricordiamo che 7 su 12 al momento sono gli assessori che avrebbero annunciato le loro dimissioni, quindi, come dicevi giustamente Roberta, Ignazio Marino, che oggi alle 16:28 ha ritirato le proprie dimissioni, di fatto è rimasto da solo, perché oltre alle dimissioni annunciate in blocco dai suoi assessori, dalla sua giunta, ci sono le dimissioni dei 19 consiglieri del PD. Lo ricordavi, hai fatto bene a ricordarlo, perché c'è questo numero che balla a questo punto, i 25 consiglieri comunali. Se si raggiunge questa quota di dimissioni in blocco, il Campidoglio potrebbe essere sciolto, e già questa sera stasera e domattina, queste sono le ultime notizie che abbiamo, potrebbero arrivare queste dimissioni, non solo i 19 del Partito Democratico, ma ci sarebbero anche 6 altri consiglieri che arriverebbero a fare da sponda, diciamo così. E ci sarebbero, ci sono già dei primi nomi che circolano, quelli di Marchini Onorato della lista Marchini, Di Noi del gruppo Misto, Belviso di Altra Destra, e poi dalla maggioranza Parrucci e Celli. Dunque si raggiungerebbe questa quota di 25 consiglieri, però al momento ancora non è certo. È uno scontro durissimo, uno scontro molto aspro con il Partito Democratico. Marino ha chiesto un confronto in aula, un chiarimento con la propria maggioranza, o forse al momento sarebbe da dire ormai ex maggioranza. A questo punto però c'è da capire se riuscirà ad averlo questo confronto con la maggioranza, perché se ci saranno le dimissioni in blocco, questo salterà. Grazie Nazareno Orlandi. Poi se ci fossero notizie particolarmente importanti, o se ci fossero magari le dimissioni, ci risentiamo più tardi. Grazie Nazareno Orlandi, intanto da Roma. Grazie. Ciao a te. E poi adesso passiamo all'inchiesta della squadra mobile di Palermo su un giro di tangenti, tanto per cambiare, che sarebbero state pagate per evitare intoppi nello svolgimento di un appalto da 26 milioni di euro bandito dalla Regione Sicilia. Oltre al presidente di Rete Ferroviaria Italiana e dell'azienda siciliana Trasporti, Lo Bosco, sono stati arrestati anche 2 dirigenti del Corpo Forestale. Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lovoi, durante la conferenza stampa ha lanciato un allarme e ha detto: la corruzione diventa sempre più pervasiva, ormai costituisce un fenomeno. Ci siamo ritrovati a venire in possesso di un diverso tipo di libro mastro, a metà tra il libro mastro e la lista della spesa, contenente l'elenco delle somme che un imprenditore aveva versato per determinate sue attività e che aveva avuto cura, così come in altre occasioni altri avevano avuto cura, di riportare, elencando nomi e cifre versate, nomi, date e cifre versate. E allora perché dico deprimente? Dico deprimente perché c'è quasi l'utilizzazione di quei metodi con riferimento invece a, non alle estorsioni, non al pizzo, ma alla corruzione. E restiamo in Sicilia per una vicenda completamente diversa, è ormai emergenza idrica a Messina. Messina è senza acqua non da 1, non da 2, ma bensì da 6 giorni, con enormi disagi per i cittadini. Tutto questo a causa di un guasto alla condotta di Fiume Freddo di Sicilia, causato da una frana sabato scorso in provincia di Catania. E la situazione non è affatto destinata a migliorare. L'AMAM, l'azienda meridionale acque di Messina, ha fatto infatti sapere che per i prossimi 6 giorni l'erogazione non verrà ripristinata, perché ancora ci sono problemi per nuovi piccoli smottamenti. Come spiega il sindaco di Messina, Renato Accorenti. La mamma con tutti i suoi tecnici sono andati sul posto, era scongelato tutto. Quando si stava per aprire l'acqua nelle tubazioni, hanno visto che la frana in corso continuava, la tubazione si muoveva, hanno dovuto interrompere. Nel frattempo sono state chiuse per oggi scuole, università, uffici pubblici. Inaccettabile, nel 2015 si faccia subito qualcosa, ha scritto su Twitter Rosario Fiorello. La protesta è diventata anche virale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Procede dal punto di vista politico lo scontro intanto sulle unioni civili, questa volta a essere in totale disaccordo sul tema sono il ministro dell'Interno e quello della Giustizia. Sono totalmente in disaccordo con il collega Orlando. Ogni bambino deve avere un papà e una mamma. Altra cosa sono i diritti patrimoniali di persone anche dello stesso genere che vivono in coppia. Ma non ci si può mettere di mezzo i bambini. In tema di unioni civili e relative adozioni sono agli antipodi ministri del governo Renzi, Angelino Alfano e Andrea Orlando. Il ministro dell'Interno ha reagito, come abbiamo sentito, all'intervista rilasciata a Repubblica dal Guardasigilli, il quale si è detto a favore dell'adozione da parte di coppie omosessuali, ricordando che in tema di regolamentazione delle unioni civili, l'Italia ha un obbligo giuridico a intervenire sulla base di una sentenza della Corte di Strasburgo del 21 luglio 2015. Parole queste che non sono andate giù al centrista di maggioranza Maurizio Lupi, secondo il quale, sino a prova contraria, le leggi in Italia le fa il Parlamento e non le sentenze di una Corte. Interpellato dai giornalisti, questa è la replica di Andrea Orlando. Noi siamo tra i pochi paesi che hanno ancora questo vuoto normativo. Una risposta deve venire. Il Parlamento può darla come crede, ma non può eludere questo dato, anche per evitare che questo vuoto sia colmato dalla pronuncia di soggetti giurisdizionali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi lo scandalo Volkswagen, il gruppo ha comunicato che i veicoli circolanti in Italia coinvolti in questa vicenda dei filtri truccati sono 709.712, ne hanno contati quindi uno per uno, lo ha detto il ministro dei trasporti Delrio in audizione oggi alla Camera. Spostiamoci all'estero con la Germania che è sotto shock dopo la confessione di un uomo che a Berlino ha rapito e ucciso un piccolo profugo. È stato trovato morto a Berlino il piccolo Mohammed, il profugo bosniaco di soli 4 anni scomparso un mese fa. La polizia ha arrestato il primo sospettato per omicidio, un 32enne della regione del Brandeburgo, la cui immagine era stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso mentre portava via il piccolo tenendolo per mano. A portare la polizia sulle tracce dell'omicida la madre del giovane che ha riconosciuto il figlio nelle immagini. La notizia commuove la Germania. Mohammed si trovava in un centro per accoglienza profughi insieme alla madre e alle sorelline quando è stato rapito. Questa notizia è arrivata nel giorno in cui si sono registrate nuove vittime in Grecia, 8 i morti nel rovesciamento di un'imbarcazione al largo dell'isola di Lesbo, 30 persone ancora disperse e 242 quelle salvate. In Italia il capo della direzione immigrazione e polizia delle frontiere Giovanni Pinto ha annunciato che sono quasi 140.000 i migranti sbarcati sulle nostre coste quest'anno, l'8% in meno rispetto al 2014, poco più di 100.000 quelli identificati. Il calo è dovuto soprattutto al cambio di rotta dei siriani che prediligono il corridoio balcanico, ora prevalgono gli africani subsahariani. Sul tema è tornato a parlare il presidente della Repubblica Mattarella. Nel nostro paese, come in tutta l'Europa, abbiamo bisogno di ripristinare il senso della comunità. Intanto il numero complessivo di profughi entrati in Slovenia in sole 2 settimane ha superato quota 100.000. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre dall'estero, Turchia. La Turchia sta diventando più autoritaria e l'indipendenza del sistema giudiziario è minato dalla politica. Sarebbe questo in sintesi il contenuto del rapporto dell'Unione Europea sulla Turchia che Bruxelles ha deciso di non pubblicare per ora, ma che è stato diffuso dall'agenzia Reuters online, ripreso da diversi media internazionali. E poi parliamo anche di questa rivoluzione demografica in Cina, perché il paese ha messo fine alla politica del figlio unico. D'ora in poi ogni coppia potrà mettere al mondo due figli. La notizia arriva da un documento uscito dal quinto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista che si conclude giovedì. La misura era stata adottata nel 1979 come metodo di controllo demografico, ma questa contestatissima legge aveva creato una serie di squilibri. Tra l'altro poche donne in confronto del numero di uomini, perché ci sono stati per anni gli infanticidi femminili selettivi e quindi a danno delle bambine e l'invecchiamento della popolazione. Da ultimo si è dimostrata inadeguata questa scelta alla nuova fase di sviluppo sociale ed economica del gigante asiatico. Di nuovo in Italia la cronaca, un femminicidio mancato per poco al culmine dell'ennesima lite, ha esploso due colpi di pistola alla testa della sua ex fidanzata che è riuscita a schivarli, pensate, spostandosi di colpo, poi le ha spruzzato un prodotto urticante negli occhi e mentre lei scappava ha tentato di travolgerla con l'auto. Insomma, le ha tentate tutte per farla fuori. Un 28enne di Endine Gaiano è stato arrestato oggi dai carabinieri per tentato omicidio e atti persecutori. La sua ex, 38 anni, veniva perseguitata da oltre un anno dalla fine della relazione. Lui non ne voleva sapere di questa separazione. E poi l'OMS torna a parlare. L'annuncio dello IARC, dell'Istituto per la ricerca sul cancro, dice sul rischio cancerogeno delle carni rosse lavorate non era allarmista. Sono stati identificati dei rischi. Il report finale, che sarà disponibile a metà 2016, dice l'OMS, esporrà le medesime conclusioni. E per chiudere, il calcio con questa partita Sampdoria-Empoli che chiude la 10ª giornata di Serie A, ma come si è aperta, Dario Ricci? Beh, finora poche emozioni, Roberta, buonasera, siamo al 30esimo di gioco, ancora 0-0 a Marassi. Sampdoria che in realtà un gol l'ha fatto al secondo minuto con Ederma in posizione di chiaro fuorigioco e quindi inevitabile l'annullamento. Direi poi per il resto nient'altro da segnalare, anche se non il fatto che Cassano è titolare dal primo minuto e questa è sempre una notizia. Grazie Dario Ricci, poi ci aggiorni ancora dopo. Intanto vedo i vostri messaggi tra la pagina Facebook Effetto Notte e il 349-238-6666. A proposito di Marino, Marino è un grande, viva Marino, scrive qualcuno. Un altro dice il tragicomico. E poi Vito da Bari, Marino fa benissimo, il PD è coinvolto negli scandali romani seri e hanno cercato di eliminare una persona scomoda. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Wally dice abito a Milano, non saprei dire però quanto dicono la maggior parte dei romani, la città è disastrata, il sindaco ha le sue responsabilità, sarebbe meglio che si facesse da parte. Continuate, ne parleremo poi ampiamente dopo la viabilità. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quindi adesso passiamo alla vicenda del giorno, che in realtà è una saga che dura da diverso tempo. Quindi abbiamo detto che Marino ha ritirato oggi le dimissioni, però leggo velocissimamente qualche messaggio vostro tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Erminio da Bergamo, Marino ha fatto benissimo, io sto con Marino. E poi un altro ascoltatore, Marino ha fatto bene, se i PD si dimettono subentreranno i non eletti, chissà come sono contenti. Non lo so se funziona proprio così. Pino dice mi viene il vomito. Federica, io non ne posso più di sentire ovunque di Marino, spero che finisca questa storia in fretta, se lo lasciano lì dopo tutto questo circo il motivo è solo uno, hanno paura del Movimento 5 Stelle, così molti altri messaggi. Ma vi ricordo prima di tutto tutte le notizie più importanti della giornata. Appunto, lo scontro finale a Roma, Marino ci ripensa, i Dem vanno via, ultimo atto sono i fori pedonali che saranno pedonali per un anno nei festivi e nel fine settimana, questa è la notizia di adesso. E poi tangenti per appalti, arrestato il presidente di Rete Ferroviaria Italiana Lo Bosco, incassò una mazzetta per degli appalti. Scontro sulle unioni civili tra il ministro Alfano e il ministro della giustizia Orlando, intanto il sottosegretario Lotti apre ad altre maggioranze possibili. Rivoluzione demografica in Cina, addio il figlio unico, il comitato centrale cancella la legge, si possono avere due figli per coppia. E poi questa 17enne che uccise la madre, le vietava computer e cellulare, l'omicidio avvenne a maggio e si è scoperto poi dopo. Intanto per Sampdoria e Empoli per il momento vanno 0-0. Ritengo che ci sia un luogo che è un luogo sacro per la democrazia, che è l'aula o di un Parlamento o di un Consiglio Comunale. Io sono assolutamente pronto a confrontarmi con la mia maggioranza, a illustrare quanto fatto, le cose positive, gli errori, la visione per il futuro, ma quello è il luogo della democrazia. Questa sera parlerò, come è assolutamente giusto, con la Presidente Baio e illustrerò, oltre ovviamente consegnarle la lettera, la mia intenzione di avere una discussione aperta, franca e trasparente nell'aula di Giulio Cesare. L'ha fatto Marino, quindi ha ritirato le dimissioni, vuole avere questo confronto in aula, l'aula Giulio Cesare, chiara, per capire se ci sono le condizioni per andare avanti. Quindi ha firmato la lettera con la quale ritira le dimissioni presentate lo scorso 12 ottobre, questo a 3 giorni dalla scadenza. Se sapete come nei film, quando sta per scoppiare una bomba o c'è una scadenza imminente con l'orologio che si vedono i secondi digitali che scorrono, ecco, a 3 giorni ha bloccato questo scorrimento di orologio. Adesso che succede? Ne parleremo tra pochissimo con Guido Gentili, editorialista giornalista del Sole 24 Ore che saluto e ringrazio. Ciao Guido. Buonasera Roberta. Guido, tra l'altro ho sentito poco fa, non poteva esserci a quest'ora, ma poco prima della trasmissione, Emanuele Fiano del PD, che tra l'altro è candidato alle primarie per il sindaco di Milano quando si faranno le elezioni, e gli ho chiesto effettivamente adesso qual è la posizione del PD, insomma tocca al PD decidere cosa fare, anche se hanno già detto che 25 consiglieri tra maggioranza PD e altri sarebbero pronti alle dimissioni entro domani, ma sentiamo che cosa ha detto Fiano. Onorevole Emanuele Fiano, allora Marino, non tanto a sorpresa, perché insomma lo annunciava da un po', c'era nell'aria questa cosa, però forse non ce lo si aspettava che accadesse proprio oggi, però ha fatto la sua mossa, quindi ha ritirato le dimissioni. Ora tocca al PD. Il Partito Democratico ha già espresso, sia nella sua dimensione nazionale che per quello che riguarda il gruppo consigliare dell'Assemblea Capitolina, la propria opinione. Noi riteniamo che si sia consumato il rapporto di fiducia con la città di Marino e i nostri consiglieri comunali si dimetteranno, certificando quindi il fatto che il sindaco sarà dimesso per effetto delle dimissioni dei nostri consiglieri. Siamo coerenti con quello che abbiamo pensato, avevamo capito che Marino avesse ormai intrapreso la strada delle dimissioni, così non è. Vuole evidentemente essere sfiduciato dal suo partito e così avverrà. Lui probabilmente sì, come si è detto più volte, voleva l'onore delle armi, voleva un'uscita onorevole, no? Così secondo lei come avviene questa uscita? Ma guardi, io si parla molto di questa uscita onorevole. Onestamente penso che noi si debba guardare alla sostanza delle questioni. Il sindaco di una grande città, è vero che è eletto direttamente dai cittadini e quindi gode di quel consenso iniziale, nella città di Roma si sono succeduti eventi sia diciamo totalmente non riferibili a Marino, ma anche gli ultimi episodi invece riferibili a un, come dire, ad un codice di comportamento che ha sollevato più di una critica, e un sindaco non governa da solo, i suoi assessori non governano da soli, hanno necessità, oltre al consenso dei cittadini, di avere l'appoggio, il consenso, la collaborazione del gruppo dei consiglieri comunali dei partiti che sostengono la maggioranza, che sostengano la giunta e il sindaco. Questa questione dei numeri invece, che devono essere almeno 25 i consiglieri che si dimettono contemporaneamente, ci sono questi numeri, onorevole Fiano, o no? Guardi, io non sono in grado in questo momento di fare esattamente la il pallottoliere. So che la decisione del Partito Democratico è presa e credo che questo avrà le conseguenze che ciò determina, cioè la caduta della giunta. E ripeto, poi per quale ragione, anche se magari alla prima conta, non so, io non ho notizie in questo momento, ma dovessero mancare un consigliere o due del PD, o per quale motivo bisognerebbe continuare a governare? Cioè, noi non crediamo nella democrazia di un uomo solo al comando. Piano, lei dice che quindi il rapporto di Marino con la città di Roma si è rotto anche col PD a questo punto? C'è un futuro possibile per Marino nel PD o è chiuso anche questo? Questa è una domanda difficile, non la so. Sinceramente non saprei rispondere. In questo momento, come dire, mi viene in mente quello che ha detto il presidente Renzi rispetto alla legge di stabilità nell'ultima intervista che ha dato a Cuba prima di partire. Quando ha detto rispetto alla legge di stabilità l'importante è che si faccia una legge che interessa e tocca la maggioranza degli italiani, non la minoranza del Partito Democratico. Riguardo a Roma, io penso che si debbano fare ed avere comportamenti che riguardano il bene complessivo e collettivo della città. È meno importante qual è la sorte individuale di ciascuno di noi. E faccio un'ultimissima domanda, onorevole Fiano. Lei è candidato alle primarie per il sindaco di Milano, se non sbaglio? Sì. Rispetto a quello che ha detto Cantone sul primato di Roma, Milano, capitale morale, Roma che non ha gli anticorpi, che cosa ne pensa di questo paragone tra le due città? Ma io penso che Cantone giudicasse in quella frase un evento straordinario che c'è stato a Milano, l'Expo, e che questo è stato uno sforzo straordinario, perché in un evento in cui hanno partecipato 20 milioni o più di persone, che ha visto anni di preparazione, aver raggiunto questo risultato è un qualcosa che, riferito o che se lo rispecchiamo negli eventi di Mafia Capitale che hanno segnato purtroppo la nostra capitale in questi ultimi mesi o anni, ha fatto a dire a Cantone una frase che io personalmente non avrei detto così. Non penso che ci sia una questione, diciamo, di primato, dice. Penso che Milano sia molto bella, molto imbellita, sia stata molto capace, ma penso che gli italiani siano tutti uguali, che basta una questione di capacità e di volontà politica di guidare la cosa pubblica organizzando gli anticorpi, che esistono sicuramente in tutti gli italiani, organizzando il sistema degli appalti, delle imprese, degli eventi organizzati in modo da evitare quello, e che tutti possiamo arrivarci. Noi milanesi siamo molto orgogliosi di Milano, ma io non penso che si debbano fare gare. Grazie onorevole Emanuele Fiano, grazie, buona serata. Grazie a lei. Grazie di nuovo. Guido Gentili, quindi siamo arrivati a questo epilogo che non significa alla fine, bisogna vedere ancora che cosa succede, quali sono le prossime tappe, ma tu come la valuti questa mossa di Marino? Ma questa mossa di Marino era stata già largamente anticipata nei giorni scorsi ed era comunque un po' nelle corde del personaggio, che varie volte ha fatto dei passi avanti e poi dei passi indietro in varie circostanze. Credo che politicamente l'avventura sia finita, perché non solo si è rotto un rapporto con la città e con i romani, ma si è rotto anche il rapporto politico con il Presidente del Consiglio, che è anche segretario del partito, e si è rotto il rapporto con il PD, e le dichiarazioni di questa sera del Partito Democratico indicano che i 19 consiglieri del partito sono dimissionari. Bisogna arrivare al numero 25 perché decada il consiglio, e stando alle notizie delle ultime ore, degli ultimi minuti, sembrerebbe che questo numero sia stato raggiunto, e quindi l'avventura tecnicamente e politicamente anche finisce qui per certi aspetti. Quindi da questo punto di vista era da mettere in conto, previsione, sia questa ultima colpo di coda del sindaco, sia un risultato politico, quello che comunque piaccia o non piaccia è quello più razionale in questo momento. Tra l'altro c'era ieri qui in collegamento Effetto Notte Panecaldo, Fabrizio Panecaldo, che è capogruppo PD in Consiglio Comunale a Roma, che aveva già anticipato il fatto che non erano favorevoli alla sfiducia ma preferivano dimettersi in massa, appunto in gruppo, l'aveva detto proprio ieri sera. Però sentiamo invece, per quanto riguarda le opposizioni, a cominciare dal Movimento 5 Stelle di Battista, che sono stati loro a scatenare un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso con questa vicenda degli scontrini. Sentiamo cosa dice Di Battista. Roma è tenuta in ostaggio dalle faide interne del Partito Democratico. Renzi, Orfini e Marino hanno fallito. Questa è la mozione di sfiducia che il Movimento 5 Stelle ha depositato. Votassero questa mozione di sfiducia e permettano, e devono permettere ai cittadini romani di votare. Votiamoli via, è che hanno paura, perché Roma è con noi. Infatti il Movimento 5 Stelle dagli ultimi sondaggi sembrerebbe, Guido Gentili, piuttosto in alto nella classifica di quelli che potrebbero vincere le elezioni. Sì. Anche la Meloni, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, può essere una possibile candidata. Sentiamo che cosa dice invece lei. Noi abbiamo ieri presentato una mozione di sfiducia a Marino composta di 39 punti, tanti erano quelli di chi vorrebbe difendere il sindaco Marino, quindi abbiamo anche pronta una nostra mozione, siamo disposti a votare qualunque cosa, purché si possa fare chiarezza e si possa andare a votare per avere un nuovo sindaco nel minore tempo possibile, quindi secondo noi nella prossima primavera con le altre elezioni amministrative. Perché qualcuno aveva pensato, magari qualcuno al centrodestra potrebbe aiutare Marino a rimanere per far ancora più intorcinare il PD, farlo esplodere. Invece abbiamo sentito le opposizioni cosa pensano. Ma Guido Gentili, c'è l'unico che ho visto oggi difendeva Marino, a parte il suo braccio destro, è Diego Della Valle, il patron di Todds, che proprio oggi lì agli stati generali della cultura del Sole 24 Ore ha detto, a una domanda del direttore Roberto Napoletano, ha difeso Marino dicendo: credo che il problema di Roma non cominci con Marino, il problema di Roma comincia 30, 40 anni, 50 anni fa, non ha un problema a Roma, il problema ce l'ha la classe dirigente che l'ha massacrata in questi 30, 40 anni, quello che oggi si vede da fuori, dice, è che Marino, sembra che Marino sia arrivato dalla Luna e abbia massacrato una città, invece lui ha trovato l'80% di questi problemi. Sì, certamente i problemi di Roma non arrivano con l'elezione di Marino a sindaco, e basta considerare solo il livello dei debiti che ha raggiunto Roma negli ultimi anni. Ma detto questo, però va segnalato anche un deficit di gestione negli ultimi anni che è molto pesante, e vorrei ricordare che Marino è stato eletto sindaco nel primavera del 2013, e che ci sono stati poi successivamente due rimpasti, cioè della giunta, voglio dire, quindi diciamo due nuovi inizi di un'avventura politica che sembrava sulla carta fosse, diciamo, avesse una prospettiva molto solida. Quindi vuol dire che qualcosa, anzi molto, non ha funzionato in questi due anni, e in particolare Marino, diciamo, ci ha messo anche del suo, con degli errori, con delle gaffe che tutti abbiamo visto scorrere, diciamo, negli ultimi mesi in modo impetuoso, e questo, diciamo, ha creato una situazione di rottura, diciamo, con la città e con il partito. Quindi vedremo a questo punto come ci sveglieremo domani, a meno che non decidano stasera, non ci sia stasera la decisione dei 25, se ci sono tutti e 25, esatto, di mollare, comunque, insomma. Esatto, cioè, voglio dire, nelle prossime ore credo che domani avremo un quadro decisamente chiaro in un senso o nell'altro. Grazie Guido Gentili. Grazie. Ciao Guido, ciao, buona serata. Prima di lasciarci, prima di questa pausa di ricreazione, dice Alessandro: chi elogia Marino evidentemente non vive a Roma, ma mai da 50 anni a questa parte Roma è stata così disastrata. Bastano i romani, stiamo pagando sulla nostra pelle delle faide interne di un partito che non interessano a nessuno. Abbiate pietà, levateci dalle scatole questo inutile e incompetente, dice Alessandro. E poi invece un altro: al di là di tutto, dice Mimmo da Teramo, non si dimentichi che Marino è stato il massimo promotore dell'abolizione degli incivili, ospedali psichiatrici giudiziari, per le quali avrebbe meritato l'elezione, se non addirittura, dice, Presidente della Repubblica. Questo è Mimmo da Teramo. Continuate gli sms al 349-238-6666 oppure i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Finalmente un democratico vero, quelli che decidono fuori dalle istituzioni sono solo trafficoni, dice un ascoltatore, scrive al 349-238-6666. State continuando con i vostri messaggi sulla vicenda Marino. Roberta Giordano sempre con voi. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, fra i vari, Cristiano: si sta ostinando Marino ad arrivare a un inutile corpo a corpo col PD, preso atto della sfiducia ormai conclamata, un inutile balletto d'orgoglio al centro di un lazzaretto, il lazzaretto, dice il PD, o meglio dell'ennesimo sacco contro la capitale. Poi Nino: giusto, le ragioni del PD sono ridicole. Ancora ieri sera un patetico assessore in trasmissione da lei, cioè da me, affermava che avendo comunque governato bene doveva comunque dimettersi, non era un assessore, era il capogruppo in consiglio comunale del PD, e poi diceva sì, certe cose sono andate bene, le ha fatte bene, non le ha sapute comunicare, però ormai si è rotto il rapporto con la città. Questo diceva Vito: ha fatto benissimo Marino, bravo, bravissimo, il PD sprofonda nella melma. Mentre voi procedete con le vostre riflessioni, tra poco parleremo di questo caso, di questa ragazza 17enne che ha ucciso la madre, si è scoperto poi dopo mesi, perché le aveva vietato di usare PC e telefono per punirla perché andava male a scuola. Ma prima vi ricordo le notizie importanti della giornata. Roma: Marino sfida il PD e ritira le dimissioni, si dice pronto al confronto con la maggioranza, ma 25 consiglieri sono pronti alle dimissioni in massa. Ancora tangenti per appalti e domiciliari il presidente di Rete Ferroviaria Italiana. Lo scontro sulle unioni civili, sottosegretario Lotti apre ad altre maggioranze. Rivoluzione democratica e demografica in Cina, addio al figlio unico, il comitato centrale cancella la legge, ora è possibile avere due figli per coppia. E poi svolta sull'omicidio in Calabria, di cui parleremo tra pochissimo. Messina, la città senza acqua da 6 giorni, esplode la protesta, i cittadini esasperati. Leggevo poco fa una nota di Renzi che diceva: è una vergogna. Saluto Paola Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Europea Disturbi d'Attacchi di Panico. Buonasera dottoressa Vinciguerra. Buonasera a voi. voi. Allora, c'è stata questa svolta nelle indagini sul delitto di un'infermiera di 44 anni che è stata ammazzata a colpi di pistola il 25 maggio scorso a Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, e si è scoperto che sarebbe stata la figlia di 17 anni, perché la giovane è accusata di omicidio aggravato da motivi abietti e futili. Cos'è successo? Pare che questa mamma la riproverasse frequentemente perché andava male a scuola, aveva scoperto anzi che spesso non ci andava neanche a scuola, e quindi le aveva vietato per punizione l'utilizzo del cellulare e del telefono, e meditando vendetta questa ragazza una notte nel sonno avrebbe ucciso la madre con la pistola del padre, che faceva parte della Polfer, che era fuori per lavoro. E, è stato consumato a maggio questo delitto, ma la minorenne è stata arrestata questa mattina dai carabinieri, i magistrati hanno detto che ha agito con freddezza, con premeditazione. Quello che ci si chiede in questi casi, dottoressa Vinciguerra, intanto penso siano insomma abbastanza sporadici, poi trattandosi di una ragazza ancora di più, però che cosa passa nella mente di un giovanissimo, di un adolescente, adesso che sono così dipendenti davvero dalla connessione costante, no? Con i vari dispositivi, cellulari, PC, social network, eccetera. Purtroppo quello che passa nella testa di questi ragazzi è che la privazione di quello che per loro è un'identità, è un gruppo, è una modalità di vita, e che quindi ormai ha assunto delle dimensioni di dipendenza, ormai si parla delle nuove dipendenze senza sostanza, e internet, i cellulari, i giochi di ruolo fanno parte di queste nuove, diciamo, disturbi. Si sentono come privati della propria identità, si sentono ingabbiati, si sentono senza che la loro vita possa avere un senso al di fuori di queste modalità con quali ormai loro si identificano, si esprimono e si rappresentano. E quindi la freddezza di questa ragazza è comunque conclamata nel tempo, perché questo è un delitto avvenuto a maggio. È stata. Aveva inscenato una rapina all'inizio, sì, aveva inscenato una rapina. Sì, ha inscenato la rapina, ma è stata sospettata perché hanno rilevato polvere da sparo, quindi evidentemente, anche se queste non sono state cose scritte, ha retto anche a degli interrogatori sui quali si è confusa, quindi si deve vincere un atteggiamento emotivo intanto assente rispetto all'azione, perché se io avessi una consapevolezza emozionale sarei crollata, avrei comunque dichiarato, perché poi quello di dichiarare diventa anche un comportamento di soluzione di una colpa che evidentemente emozionalmente questa ragazza non vive e non percepisce, quindi vuol dire che tutto il suo mondo, tutta la sua sfera non era più all'interno della famiglia, ma era proprio attraverso quei mezzi che la mamma le poteva assolutamente togliere. Dottoressa Vinciguerra, tra l'altro ho visto pubblicato un sondaggio di scuola.net secondo il quale il 65% dei ragazzi mostra ansia o irritabilità in caso di mancanza di connessione, e uno su sei passa almeno 5 ore al giorno attaccato a smartphone o PC, è una cosa esagerata, mi sembra. Ma sono proprio gli effetti tipici di una dipendenza. Cioè, quando manca la sostanza, anche se non parliamo di sostanze chimiche, ma di sostanze cerebrali, perché è un meccanismo psichico, è un meccanismo del nostro sistema nervoso centrale che si muove sulla ricerca del piacere, della soddisfazione attraverso l'uso e la connessione. Infatti loro presentano proprio i tipici segni di astinenza. Ma quindi i genitori e la famiglia come si devono comportare? Ma i genitori e la famiglia si dovrebbero comportare con i figli e dovrebbero essere aiutati in questo percorso così complesso, forse da quando i figli nascono. Noi come associazione abbiamo promosso proprio dei corsi che arrivavano dal postpartum, perché le persone forse sono impreparate, non sanno, non conoscono uno sviluppo cerebrale, quindi non conoscono poi quelli che poi sarebbero i comportamenti più adatti da tenere nel corso del tempo per poter favorire nei loro figli proprio un certo tipo di apprendimento, un certo tipo di connessione. Questa è la prima cosa, cioè i genitori vanno educati. Ovviamente coloro che hanno invece dei genitori che già sono adulti non possono pensare adesso di vietare o di entrare in un meccanismo di braccio di ferro. Le cose vanno spiegate in una coesione, in un atteggiamento comunque di collaborazione anche con le scuole, mentre anche in questo si sta creando una situazione anche di conflittualità e di iperprotezione dei ragazzi anche rispetto a certi atteggiamenti più autorevoli da parte degli insegnanti. Diciamo che vanno un po' riorganizzati tutti i ruoli, perché questi ragazzi che a quest'età non sanno neanche chi sono, non hanno ancora finito la loro identificazione, e poi per procedere hanno bisogno di modelli, hanno bisogno di situazioni certe che non possono essere confuse dalla scuola o dai genitori, dove si può far tutto e poi improvvisamente non si può far più niente. Cioè il dialogo, la comprensione e non il concetto di punizione, perché la punizione non esiste. Esiste un comportamento atto a far prendere coscienza che la punizione fine a se stessa crea soltanto una reazione aggressiva. È difficile, in alcuni casi abbiamo visto drammatica. Già, il mestiere dei genitori è sempre difficile, però se si fa un pochino più attenzione, anche i tempi poi cambiano velocemente, bisogna, insomma, un mestiere complicato, bisogna essere sempre sul pezzo, come si dice, bisogna cercare il dialogo, sembra un luogo comune, però sicuramente è meglio che non appunto il muro contro muro, come diceva lei, dottoressa Vinciguerra. La ringrazio intanto e buona serata. Arrivederci, buona Grazie. Serata a voi. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, sempre sulla mossa di oggi del sindaco Marino Giovanni. È una gigantesca gioppinata e a conferma del nostro mondo politico. Adriana, quanto rosica Renzi? Lenda invece scrive: roba da matti, solo in Italia succede. Sicilia, bancarotta, Roma anche degrado da terzo mondo. No comment. E poi invece il messaggio di Nino: giusto, le ragioni del PD sono ridicole ancora ieri sera. No, questo l'avevo letto prima. Insomma, c'è un insieme di messaggi che qualcuno che dice a Marino di continuare a resistere, molti altri insomma che sono abbastanza scandalizzati da questa vicenda. Adesso vi ricordo brevemente le notizie più importanti se avete acceso la radio in questo momento. Scontro finale a Roma, Marino ci ripensa e ritira le dimissioni, i democratici vanno via. E poi tangenti per appalti, arrestato il presidente di Rete Ferroviaria Italiana Lobosco, incassò una mazzetta per appalti. Scontro sulle unioni civili, il sottosegretario Lotti apre ad altre possibili maggioranze trasversali. Rivoluzione demografica in Cina, addio al figlio unico, il comitato centrale cancella la legge due figli per coppia. La 17enne che ha ucciso la madre che le vietava computer e cellulare, ne abbiamo appena parlato. Sampdoria e Empoli per il momento 0-0. Europa 24. Vi ricordate che ieri abbiamo parlato del fatto che il Parlamento europeo ha dato il via libera nei piatti degli europei a insetti, alghe e cibi costruiti in laboratorio? Ebbene, sono alcuni questi dei nuovi alimenti che potranno appunto più facilmente essere autorizzati e commercializzati grazie alla proposta di regolamento approvata dal Parlamento europeo. Non è definitiva, ma manca poco, spiega Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del Parlamento europeo, al microfono di Laura Bettini. È solo un aspetto più di formalità giuridico-amministrativa che non di sostanza. Siamo al 99,9%, poi se una cosa la scriviamo con una forma o con un'altra mi sembra che cambi poco. Senta, a questo punto veniamo al contenuto. In giro gente preoccupata dice: ci costringono a mangiare gli insetti. No, gliela ripercorro. È anche possibile utilizzare degli insetti, ma va fatta un'analisi di impatto. L'EFSA deve, quindi l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, deve emettere un proprio parere. Non devono far male alla salute, ovviamente devono poter essere riconoscibili dai consumatori. Pensi al fatto che in Europa abbiamo milioni di persone che vengono da altri continenti e dobbiamo poter consentire anche a loro di mangiare ciò che nel loro paese è tradizionale. Non c'è nulla di così scandaloso, nessuno obbligherà nessuno a mangiare insetti o alghe. Qui parliamo di prodotti da importare o prodotti da produrre in Europa? So soprattutto sarà produzione europea. Questo ovviamente ci comporterà tutta una serie di altre attenzioni su come vengono allevati, ad esempio, gli insetti. Ci sarà tutta no, no, una... No, no, no, no. I veterinari dovranno prestare attenzione agli animali ai quali hanno sempre prestato attenzione. Credo che ci saranno atti conseguenti nei quali si disciplinerà meglio e in dettaglio la materia, però questo è il regolamento quadro che prevede anche che questi componenti possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari, nulla di più. Eh sì, perché insetti o alghe possono essere consumati quando sono riconoscibili o quando non lo sono più, all'interno di altre preparazioni. Comunque, dal punto di vista nutritivo, vanno sempre bene. Le preoccupazioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare sono altre, ci spiega Elga Baviera, esperta di sicurezza alimentare dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Il problema sta in che cosa mangiano questi, come sono nutriti, il substrato con il quale sono nutriti questi insetti, e quindi anche in questo caso si suppone che la probabilità di comparsa eventuali di prioni, cioè quelli che hanno dato origine alla malattia encefalopatia spongiforme bovina, sia la stessa o inferiore secondo l'alimento che viene utilizzato, queste le proteine ricavate da eventualmente ruminanti o animali, come successe negli anni 80. Poi gli allevamenti saranno ad hoc affinché l'animale ovviamente possa crescere e svilupparsi senza scappare, ecco, se quello è... Sì, beh, non lo so, abbiamo vissuto alcune invasioni non volute come quella della nutria. A volte quando le cose vengono abbandonate, mettiamo che non ci sia il mercato per gli insetti, non sarebbe il caso di trovarsi i campi devastati dalle locuste. Certo, no? Questo purtroppo sono problemi, diciamo, che potrebbero anche verificarsi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24, collaborazione con Euronet Plus. Io non ho votato Marino, ma il PD dovrebbe vergognarsi per come lo sta scaricando, scrive Roberto da Roma tra la pagina Facebook di Fettonotte, il 349-238-6666. Ma adesso Dario Ricci ci aggiorna sulla partita che chiude la decima giornata di Serie A. Dario? Eh sì, Sampdoria-Empoli, poco da dire in realtà, perché siamo intorno al 50° di gioco, ancora 0-0, cara Roberta, e dire che la Sampdoria 3 gol li ha fatti, ma tutte e tre in fuorigioco, quindi però, inevitabile annullarli, direi, per il resto insomma. Dario, invece mi pare che la Juventus, c'era tutta un'agenzia bollinata, stellata oggi come fosse una notizia straordinariamente internazionale, la Juventus che si ritira, va in ritiro, non che si ritira. Sì, diciamo, visti i risultati, forse magari sta pensando anche a ritirarsi, ecco. Per il momento no, si è ritirata, nel senso che subito dopo la sconfitta col Sassuolo di ieri sera, la società ha deciso di portare tutta la squadra, l'allenatore chiaramente in ritiro, diciamo prassi abituale nei momenti particolarmente difficili, in cui, visto che poi sabato la Juventus affronta una partita già decisiva, il derby col Torino, e pensa, per la prima volta dal 93 è il Torino ad essere sopra i bianconeri in classifica, quindi... Però... Vuol dire che insomma la partenza della Juventus è stata davvero deficitaria, con 4 sconfitte nelle prime 10 gare. Per questo la società ha deciso di non rompere le righe subito dopo la sconfitta di Reggio Emilia, mantenere il gruppo compatto. Per ora la panchina di Allegri non trema, ma certo il trittico che parte col derby, passa per la trasferta in terra di Germania in Champions sul campo del Borussia Mönchengladbach e poi si chiude proprio con l'Empoli in casa, queste tre gare vengono indicate come le tre gare decisive per capire che fine farà. Grazie Dario Ricci, ciao Dario, ciao. Sentiamo le 22.